Questi sono i Police che avete ascoltato qua da Rock FM. Vi ricordo il nostro sito comunità www.rockfamily.it. Vi ricordo il mio blog edorossi.blogspot.com. Vi ricordo naturalmente anche la linea SMS 335 100 77 77 per scrivere i vostri messaggi. Ora c'è Bruce Springsteen con quella Pink Cadillac che qualche tempo dopo avrebbe avuto, secondo me, è il caso di dire, l'onore di suonare con niente meno che The Killer Jerry Lee Lewis all'interno appunto di quello che sarebbe stato il suo disco di duetti. Ne sentiamo la versione originale, appunto Pink Cadillac, lui è Bruce Springsteen. Arriva il nostro boss Bruce Springsteen, arriva all'alba di un nuovo Tris Dassi qui da Rock FM. Vi ricordo ancora i contatti 335 100 77 77, la linea SMS edo chiocciola rockfamily.it. sta per partire, dicevo, un altro Tris Dassi composto da Pearl Jam, da George Thorogood e dai grandissimi Cure, già in sottofondo con Let's Go to Bed. Yeah.

Li abbiamo riascoltati con Black al termine di questo Trisdassi, composto anche da George Thorogood e dai Cure. La voce è quella di Edo Rossi. Tra poco questa voce verrà a rispondere ai vostri messaggi, quindi continuate pure a scriverli, vedo che ne stanno già arrivando un bel po'. Tra poco arrivo, non come ieri che poi, insomma, sono successe un po' di cose, no, oggi rispondo subito.